Maurizio! Cristiano e Gian Maria! Cristiano! Oh, Marino, ma te mai sei così basso basso? Attento, Rosmarino! Marino! Quasi derra derra, Bruppio! E a me, mi ascolti! Sì, ok, sentiamo Mari. Luca, sì che ti sento, non me lo so premodulare un'altra volta, Marino. Ah. Era Marino, ma deve da seguire in macchina. Attenzione, Gian Maria. E metto, non c'è nessuno. Ma ci siamo da tutti, ma nessuno mi risponde. E Graziano, non c'è. Ci sarà venne lo Speed Day. No, la Leosol. Ma io già ne soggo. Aspetta, cuffetta. Cosa vuoi? Sto soffiando. Bella. Cosa stai facendo? E c'è soffiando, c'hai? Ehi, sto salendo le palle. E quale palle? Le palline, rosa, verde e bianca. No, rosa, verde e gialla. Mi lumi. Cassette, coso, Marino. Oh, va. Sì, Tore. Abbo, no, ne so gunda. Non so, non taglio, ero giù a San Giovanni, nei campi, e è vero. Cos'è, Luca? È vero. Abbo, Furini. Sì. Chi è avanti? Chi è? Cri basso, si avvicina la bocca al microfono. Adesso ti ho copiato. Ciao Cri, mi accompagna Dittore, tu lo senti? Zero che è zero. Ha detto che è un portatilino piccolino. Dove sei Cri? All'hotel. Picca, ti arriviamo e non arrivi a lui, buh, strano. La base mia arrivi una bacchetta, ma 0-0 Bruppio, quasi nulla. Una mucca cade dalla scogliera. Lo spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco con l'elicottero l'hanno portata su e c'è la foto, allucinante. Meno male ci sono questi mezzi, hanno provveduto a imbragare il bovino, l'hanno trasportato a terra con la rete. Ma sul caretto non avrà pigliato, chissà. Questo dall'altro, non è macuno, se ma ce lo fermo non lo gioco. Dall'alto pure sarà spaventato. Sì, come ti è caggiuta sicuramente a H2 va buru. Per un padrono cosa ha fatto? Quando mai non ci sono reti di recinzione, nulla, beh. E allora? Grazie, ancora buffendisi. Ho quasi finito! Ti mando una foto, grazie, su... su Messenger. Così vedi che tra un po' ci vuole ancora giugno e portiamo la Madonna o la divisa. E dove? E su al monte. C'è anche coso, Piruzzu con noi, però lui non l'ha portata. Lui ha fatto solo la presenza, dai. Ma Piruzzu non tedesco. Piruzzu vuole fare Radio Venere. Ah, già l'ho visto sul telefonino. Nella radio. Ehi, finito hai. E a te me ne piego la roba. 2 minuti, 3, là. Oh, grazie. Marino, deve essere non ti ascoltano. Sono questi due PMR. L'ho provato. Ehi, sta uscendo 0-0 Bruppi quasi. Cosa? No, ma c'è Marino, che a volte lo ascolta, a volte no. Luca, quel ragazzo sulla destra, al secondo, vicino a Rubrimo. Quello Pinocchio si chiama, mi pare di conosci lui. Ehi, Pinocchio, allora? Ma che è il figlio di Gianfranco o Pinocchio o di Enzo? Ah, ma lui non lo so. Stati la bancale o la rumosa bancale? Non lo so dove abita, ma sai sta bancale con la moglie? Perché è uguale al padre. Gianfranco, il pompiere, Enzo, il frappicamuro, era in palestra insieme a me dai pompieri. Se lo vedi mi chiedilo. Cioè, il figlio non lo saprà. Ma lo babbo, sì. Adesso so questo, se il figlio di Gianfranco o di Enzo. Adesso lo chiamavano Enzo lo tedesco, Pirugio, al fratello, al muratore. Non lo so, io conosco a lui e a Gianni, poi gli altri non lo so, boh, non ho idea. Quelli sono i figli, però io sto dicendo il padre. Adesso lo so questo, si assomiglia un bel a Gianfranco, questo qua, parietto. Il più piccolo di Enzo, Enzo, l'altro fratello più grande che fa il muratore. Li conosco tutti, prima abitavano nella Torre. Oh, c'è la goppo che azienda, dove c'è il barbiere, Niccolo, in quel portone lì. Lo so, non ce l'ho preso, non... io lo conosco da qualche anno, vabbè, da qualche anno perché canta nei gruppi sassaresi, capito? E niente. E già, avanti Tore. Già non è già sei gana di Favidà, ma Favidà è muda. Finito, grazie. Finito, e quando è che non hai avuto mai gana di Favidà? Mi vuole la no, veramente ero giusto a San Giovanni, al campo. C'era un po' di freschetto e forse pagisci un miso con drummendi. Ah, ma adesso non ci sei, no? Alla partita c'avevo l'allenamento. L'allenamento? C'avevo l'allenamento. Ah, anche pure di bella ragione, di timore in l'ombra. L'aria è ghiacciata, hai visto? Sparisci ovviamente se con voce 30 in macchina, non ti preoccupare. Quando la gente comincia a mettere un pochetto di freddo, ci vediamo se con voce 30 in macchina. E va tu, stamattina ho visto una base magnetica su whisky si chiama, nel cellulare, un coso cinese, VHF, insomma, a base magnetica, non è la tubuscia, ci mette un mezzetto e mezzo arriva, 6 euro. Lo so, ma una città, e se ti arrivi, buru? A me due pacchi non mi sono arrivati, ordinati da lì, e due pacchi non mi sono arrivati. No, no, io prendo spesso e mi arrivi tutto, anche in te e centri. Ma cosa l'aspetti arriva proprio. Oh, a me mi arrivano tutti. E poi, se vedo che c'è passato già quel tempo, gli mando un messaggio e mi danno la risposta. Eventualmente me lo rispediscono. Poi fanno la ricerca perché forse l'abbiano disperso. E poi mi arriva sempre tutto a me. Chi senta. Però la paghi una cazzata la cosa. Giusinato un bel cosa giusinato io. Due pacchi solo non mi sono arrivati. Si sono persi in cammino, si sono persi. Una è due schede di. Una è una scheda di memoria e l'altra è dei cacciaviti per aprire i tappi degli orologi. Chi se due non mi sono arrivati. Tutto il resto, Timirani, ma è durato redina, Poi mi sono arrivati una testa, da poi di due ghetti mi sono arrivati i bacchi. Lo so, perché non è colpa di loro, io ho visto tutta la transazione che fanno dalla Cina, passa a Hong Kong, gli hanno invaso il bocco di strada a andare arrivino, passano in un bel di città, in un bel di posti passano prima di arrivare qua. Per arrivare, arriva sempre tutto, anche se ci mette in ritardo, anche se loro io quando gli ho mandato le cose hanno sollecitato perché fanno la tracciabilità e rintracciano dove e allora telefono, come mai questi clienti se la metà, capito? Sicuramente si sono persi a ribusci, si sono persi, anche un bel di voce si pensa a ribusci, si pensa. Ehi, anche lì, i chivi non li fa vedere. Sono dovuto andare in via dei Gremi a recuperarlo un pacco. Oh, anche i chivi mi aveva detto che era le poste. E allora sono andato a cercarlo io ed era nel deposito lì. in via dei crimini o cosa si chiama, chissà via. Sono belle cose la sbigliata gratis, io ho pagato solo la spedizione, ho pagato. Anche io, belle cosa. Infatti adesso ci sono le offerte gratis. E ho ordinato qualche cosa all'ordinata. Gente, il vostro costo di nuda già arrivi, non me ne pongo problemi, ma... Sì, Amazon, Albo di Dato mi ha mandato un regalo, sai cosa mi ha mandato? Un lettore MP3. E non è buono, no, a me me lo deve mandare, non lo so cosa mi deve mandare, perché ci ordina anche su Amazon, compro anche da lì, compro un bel di cosa io, con il telefono, con il computer, e mi arrivi, sempre tutto mi arriva. Sì, su Amazon sì, su Amazon è sempre arrivato tutto. Però mi hanno mandato il lettore con le cuffie, e la sacchetta mi hai mandato, buro, dentro, vera. E con la scheda da 16 giga. E un bel di cosa io compro da lì. E anche il mese scorso ho comprato. Mi è arrivato puntuale. In 3 giorni mi è arrivato. No, su Amazon già mi arriva subito. Per esempio, poco fa ho fatto un ordine e mi arriva l'uno, il giorno 1. Sì, no, da me già arriva... Mi è arrivato sempre tutto. In 3 giorni mi è arrivato tutto da Amazon. Ma io se ne vi buone un mese e mezzo, vi buone. Vabbè, io quando prendo da lì da whisky, faccio conto che non l'ho ordinato. Cioè, sì, papà, un mese si vola, ma non ti ne avvisi se è curato un mese, non te ne sei rendendo conto, chi gli dici si vola? Cioè, ti arriva, ma cosa te ne accorgi se lo trovi in casa, ma... Vabbè, molte volte ti arriva anche una settimana, 2 settimane prima. Anche prima mi sono arrivati, però sempre in un mese... a toccare un mese o se no dipende dal posto da dove lo recupera, perché tu va a mandi a Edi, però se loro lì non ce l'hanno devono andare in un altro posto a prenderlo, capito? Lo so, infatti ultimamente avevo ordinato dei cosi per attaccare i fili con il fasto. E più, non mi ammetto cosa ho ordinato. Ancora su arrivi. Se arrivi, comunque è un bel di cosa, un bel. E sto con un'ora, un ruggente. Luca, riprendi. Era magnendi, lasciarò mangiare. Ah, ho già fatto pasta e fagioli, quei fagiolini piccoli piccoli. Se hanno botto due barattoli. Buona rete a me uscita, sa pasta e fagioli. Sì, grazie. Già fa piano, mi devo giambare, dottore, mi devo giambare, domani mattina non sto facendo nulla, ci salgo e me lo giambo, devo chiamare il CAF anche. In via Zaffarino devi salire per cambiare il medico di base. No, quello del diabete. Ah, non ti bigliacchi sui fagioli, per carità. Guarda, allora sai dove me l'hanno consigliato? Però è femmina, è brava pure. E la mia nipote vanno, ma mentre il nome. Non mi ricordo il nome, dice che è un bel brava. L'ha detto mia nipote. Sì, o a San Camillo o quella del Palazzo Rosa. Quella del Palazzo Rosa, però la femmina non rimane, femmina in me. Infatti va bene, me ne ha fottuto a me. E quello che c'ho io è di Porto Torres, anche l'altro che c'avevo prima di questo era di Porto Torres, non è più rientrato ed è rimasto questo che c'ho adesso. No, da cosa, da Pacifico me ne voglio andare. Vi voglio ben rimanere, cata, mi stai pushando a un anno, mi stai pushando a fare i visiti. Mamma mia, manco grazie già chi sulla lua l'abbia avuto. No, no, oh, quello non è la fusti nuda, l'hai compreso. Per carità. No, no, questo che c'ho io già mi chiama spesso. E mi fa si fa l'analisi, le visite, tutto si fa si fa. E io non mi metto di palle per quello, mi. Perché tutte le volte gli anni mi prescrive l'ugoso della circolazione del sangue, oppure a controllarmi le arterie, ma non sono normalmente 26 giugno. Insomma, già me ne fa fare visite queste, controlli, un bel. No, questo fino all'anno scorso me la tratteneva, ma mi si puteva visitare. Al a un anno, ah sì, no, va, prima è tutto l'anno me lo giambo. Infatti va, se salgo su domani, chiedo a vedere come devo fare per cambiarlo. Ah, lo sai perché? Perché ne ha troppi, lui, Pacifico, un bene. Guarda che quando a me mi hanno detto che ero diabetico, vi sono andato. La giudizio, beh, allora io cosa devo fare? Lei non mi vuole, quell'altro non mi vuole perché l'ha troppo, quell'altro lo stesso cosa faccio? Ha dimenticato di telefonare a quello che comanda, a tutti gli abitù lui, a lui l'ex manicomio, e mi ha detto da sai chi sul direttore generale. Cioè che sta di che mi ha detto, c'è a Cabù, al Palazzo Rosa, da adesso non mi ricordo come si chiamava quel diabeto, vada lì tranquillo, lasci perdere quella gente, il direttore mio. Anche la gente, ma prima di andare in Fondelli, chi tu non mi vuoi, chi la truppi, chi d'altro non so cosa va, capi? Sì, infatti, no, domani a Manzano, a Tanchivi, se no in Chivi, anda a San Camillo, che a San Camillo perché sta femmina, ed è brava Burmani detto. E anche a San Camillo, quella San Camillo non è a molti monti, già ne ha pronome, ma Pacifico, la truppina, per carità. Infatti diventa nel ribambi di burro, Baghiscio. Ha detto che a vedere se deve da sé o a pigliare appuntamento, o me lo devi da Edo. Diciamo, mi scende da giù e se lo prende da giù l'appuntamento, io. E allora sì, mi ha giubilato. Mi sono avviato. No, io, dove sono io? Oh, quando vado adesso alla visita, l'altra settimana devo andare con le analisi e tutto, le urine delle 24 ore, eccetera, eccetera. Prima entro in una stanza dove ci sono due infermieri, mi pesa tutto quanto, poi mi aspetta fuori, mi chiama lui in un altro ufficio e ha già controllato al computer tutto quello che è la documentazione. Quando entro in Givi, il comitato di Mirigoso, eccetera, eccetera, capito? E poi quando ho finito mi dice, dopo sei andato poco fa, che ti sei prescrive l'appuntamento, mi dà giù un foglio, lo massimo me lo mette ogni 3 mesi. Sì, grazie. Già sono tutti buoni, hanno sui bisogni di là. Più clienti vanno è meglio è paese. Ehi, vabbè, ma va, vediamo domani. Se sono libero, se no a mercoledì. No, a chi dipende da cosa c'è che vende, burro. Ti presto, guarda l'ultima compagnia. Ma io faccio di... Me ne voglio di accompagnare che mio figlio non va a macchina e devo accompagnare io. Vola. Una cura e l'altra l'asilo. E allora ti viene male, la cura avrà lutto, l'asilo, la rinuvi, così. Punto bagiscio, ma viene nei mari. Però non lo so se anche se di sabato lì puoi salire, mia lavoro. Non te lo so dire, ma mi pare di sì. Che quello sportello lì, che è aperto mi sembra, il sabato mattina. Adesso vediamo, adesso ci guardo. No, il sabato mattina mi hanno detto, dice che no, non ci sono. Mi hanno detto. Ah, no, io di sabato sono andato un giorno così a provare per fare la richiesta che dovevo fare ed era aperto che me l'hanno fatta. Perché mi pare che il sabato sono uno è in via Tempio e l'altra è su a Coso, su in ospedale. Anche il medico, il gastroenterologo che ho io, Palabanza. E via Zaffarino, prima era all'ospedale, lavorava in ospedale, nel reparto, era capo reparto. Però poi si è stufato dall'ospedale, ce ne andate e ci sta con Luca Dighi in via Zaffarino, non hai compreso. Travaglia a pizzare lui e ha finito di un altro. Invece il pizzare travagliava di mattina e di sera. E che volta faceva turni di notte, buio. Hai compreso? Allora si sta con Luca Dighi in via Zaffarino, pizza grassato sei. Sì, oh yeah. Andiamo e andiamo, chiatta, bobo. Tutto a noi, tutto a noi. Ehi, se via Zaffarino sta se ne per avvirmi, fatene la bacchia, Ivi, non ha compreso. Mica come ti travagliare i pilari che ti fanno uscire il capo. Oh! Sì, infatti, andare. Andarci. Attenzione, Gian Maria! Oh, deve essere il pari d'oggi. Luca, la doccia si sta facendo, Luca direttamente si prende la doccia. Sì, si è portata a lavare, vedi? Ah, ma la fanno asciutta un pochetto, poi si adorrà a punire. E allora, le faccio un giro di centrifuga alla lavatrice. Cazzo, che ora so, già li siete venuti zì. Fuori amargura dalla sera, boh! Ehi, sei tu preoccupato? È libero la frequenza. Ah, mia, signor Bacchi, ziomi. Signor Bacchi, buonasera. Buonasera a signor Core, buonasera Graziano, buonasera anche agli altri che sono in ascolto. Noi diciamo così, a tutto nulla, avanti Core, riprendi tu. Sì, mi per Graziano. E Graziano l'ho salutato, buonasera Graziano, avanti. Ciao Bacchigio, tutto a posto, lavorato oggi. Lavorato oggi, oh Graziano, lavorato. Tagliato erba, tagliare erba. Bravo, bravo! Buone, grazie. Vero, vero! Hai detto proprio il giusto! Tutto giusto quello, alla benemera. Oh, yeah. Allora, cosa mi raccontate di bello? A piove, esce il sole, cos'è che fate domani? Domani, per soli! Il lunico è nuova! Fine settimana io ho sentito da venerdì fa bel tempo. Ieri l'ho sentito, ieri sera. Fine settimana. Sarà da domani, bene il sole. Beh, vediamo. Ricomincia il tempo buono. Sarà. Grazie, martedì e martedì ha messo pioggia. Allora che da che entra, vabbè, già là che la battata saranno le ultime acque, queste penso, E già fa bene, già ci vuole l'acqua, ci vuole, è tutto secco. Almeno per le olive godono adesso. Eia. No, in campagna già sta bene, il terreno già è bello, non è secco. Anzi, mi è parato, merienda lui. E mi ha tagliato l'erba, la medaglia ha fatto, la medaglia ha fatto una salita. Ha fatto bene lo spugliatore e archippi. E ancora vinnaggio. Oh, da me si è aiutata la medaglia, solo doveva andarsene, anche devi andare a travagliare. Adesso viene un altro giorno, un'oretta, due orette ha fatto, ma... E pesanti a farlo travolta, ti cracca. No, è che è impegnato Burueto con lo travaglio, capi? Mi ha detto che c'è ne parlo e me lo faceva lui, capi? E dice, quando ti piace fare, a te rigiavi, e farà due ce l'ha fatto, un paio d'ore se ne è andato. Ha fatto pulizia, andare, avanti il direttore. Signor Bacchi, noia. Beato lei. Ma nulla è saputo di quella radio, tutto, cosa si può fare? Cosa hai detto? Non ho già compreso. Quella radio che c'hai tu e che ce l'ho io, sono 10 watt quelle lì sono. No, arrivano da 10 fino a 25 watt. Da 10 a 25. Però per aumentarlo, cosa bisogna fare? Nulla è saputo. Sì, bisogna entrare nel coso. Ah, ma normalmente come tira. Io te l'avevo detto com'era, ma non me ne ammetto. Io me ne ammettivo allora, se me ne metti tu. Perché certa gente dice che bisogna attaccarlo al computer, programmarlo col computer. No, che sono già programmati quelli lì, cosa? Lasciali belli, non la costa ne manco. Che per portarlo a 25 devi metterlo al massimo, E non mi ricordo come era. E quello è che bisogna sapere. Il problema è quello lì, capito? Perché di piano è in inglese, non speak English. E dunque siamo qui a proprio cadriccia. Avanti, grazie. Ma quello lì l'avevi già messo, mi Bacchi, l'avevi già portato al massimo. No, vedi che è scomparso, mi dicono tutti. Non è vero, non sparisce così. Cata, era un mio burro, è al massimo. La giù misurata è a 25. Boh, io non lo so. Bisogna che lo controlla a quanti watt sta dando. Si controlla a quanti watt sta uscendo. Con lo smetro segna anche i watt quello lì. Sì, infatti io l'avevo misurato ed era 25 il mio. Infatti te l'avevo detto, dice portalo a knitting, mi pare. Era 25 watt. E adesso è staccato, è dentro la scatola. Domani lo tiro fuori e voglio controllare quanti watt ha. Se non c'è la potenza giusta, l'ecchiccio. No, lascia il tagusci che è meglio. Perché non c'hanno trimmer, non c'hanno niente dentro. È un casotto. E così, infatti, io l'abbiamo misurato l'ultima volta, infatti non lo so potrà attendere che mi diceva che io arrivi a basso. Allora no, ci ho trattato, mi sono trattato di chiesto. E io ho cercato, sono con un po' al mare, con un gommino solamente. Sì, da cantubare, sono mezzo difettosi che si gozi. Non va là, c'è carettia di cosa. Avanti, grazie. Dì la tua. Attento, Bacchiccio. Sto attento. Attento, sono Luca, attento. Com'è Bacchi? Mi sto usando l'auricolare del telefono, della radio, dai, va bene, sì. Benissimo, limpio e chiaro. Dai, perché sono di Tuba Marina che sta ascoltando, sta guardando canale 5. E così, non la disturbo di meno, dai, anche se parlo. E vabbè, avanti tu. Non è caduto. No, non so cui caggiuto, sono ginocchi. Dottore, che facendo già? Ma vado a dire rabbetti. Rabbetti? Sì, strani, Graziano ha detto, vabbè, siete le butte in centrifuga. Che ha fatto? Prima di uscire a fare la spesa, certo, per forza. Andiamo, vai, andiamo. Bubu. Uia, riprenda signor Bacchi. E tu lo lavati? Dubbio. Dunque mi ascolta abbastanza bene perché siamo vicini. Graziano mi ascolta e quelli che non mi ascoltano peggio per loro. Graziano, avanti. Ehi, riprendi tu Luca che sto facendo una cosa ogni due minuti. Che ti prendi, Aisha? Boh. Che ti imbuttendi, Eli? Boh. Sto preparando i chef new. Aglio per sempre il peperoncino, bello bene! Chi c'è pignù? Ehi, i prataglioni, cosa hai già? Ah, buoni, mi inviti? No, è una vaschetta piccola, però gli sono belli gattosi, insomma! Ormai gli dici che gli invito a Luca, Oh, ma risolto poi con le telecamere, grazie. No, già lo faccio qui là. No, adesso non c'ho tempo, appena c'ho tempo già lo faccio. Poi, non ho giubbrezza, una baravaglia per piazzata. No, ho capito. Avanti, siamo Bacchi. Ehi, io e Luca andiamo a mangiare, a cenare da Graziano. sta facendo i funghi, aglio, prosecco, il peperoncino, oh yeah. Perché non si invita mai, ma cattone, buh. Radio Maria, in... Tore non può mangiare, vero tu? Dipende, se mi inviti, può darsi buro. Va bene, alla prossima volta invece di una ne prendo quattro. Ma che... Metti cattosi, insomma. Oh yeah. E con le morroidi. Grazie. Invece ne è poco peperoncino per quello. Ehi, ce l'ho in polvere e ce l'ho quello grande e c'ho quelli mignol, quelli piccoli piccoli, che sono più piccoli denti. Io. Il prossimo anno te ne do uno io, li ho piantati quest'anno, li fate arrivare, che sono ultra piccanti. Ehi, già ne ha assaggiato un roba piccante. Oh, mi avevano dato un... aspetta, ti devo vedere. Molise, di quella zona Molise, quei paesi lì. Come te si chiamava? Lingua di fuoco. Lingua di fuoco mi sembra si chiama. Lì che mi tratta di tutto roba piccante. È proprio il posto. Adesso, fuoco! Adesso lo faccio proprio vedere io. Albanero, sono funghi, non sono lunghi, sono semirotondi. E sono neri, ma sono ultra piccanti, grazie a... Ehi, ti sto dicendo, non fate a punirli in bocca di cantuirali boffenti. Deve pensare che ieri ho seminato dei peperoncini, quei piccolini che sono grossi. Mi sono lavato dopo, mi sono lavato, sapone, nulla. Più tardi ho dovuto fare qualcosa, ovviamente mi sono andato a lavare. Arrivo a casa e mi lavo, mi metto a cenare, mi tocco gli occhi e esco del caldo mezz'ora bignendi. Lo so, quelli rotondi che fa il sott'olio con il tonno, con le acciughe, buona reggita, quelli lì prima li facevo. Ehi, quelli non sono piccanti però, sono un'altra famiglia, sempre della famiglia dei piccanti, però quelli sono dolci, che si usano per fare i ripieni. Ehi, e poco sono buoni, riprendi tu! Non so perché ti dica, però ne posso mangiare per varone, devi subire precedenti. Ehi, una volta gli ha dato, l'ho fatto, da chi ne posso mangiare, però ogni tanto già me lo mangio. Almeno brucia i microbi dell'intestino. A me non mi si... invece ruio mi invasi. Cata, cosa mi vuoi vedere? È un tizzone. Te ne mangi un po', tanto, ma no, spesso, io ogni tanto già me lo mangio. Quelli ripieni, quando li facevo. Prendiamo mezzo barino di ricuriazzi, cose di renti, buonareggio e una tazzetta di vino. Quelli verdi e quelli gialli mangio, ma chi si vede lui, i minoredi, ha smagnato uno a Savosa, e si è diventato ruio, che è un tizzone si è diventato, c'era cioè, da venire a pronto soccorso che hanno mani visto, ma lì da vedere cosa mi ha mangiato. Una volta in campagna, va via che tu mani saggio, no? Ha tagliato a fetti, ha tagliato i peperoncini, pa cosa dobbiamo condì, e dopo ha giubilato questo cucchietto, l'ha infusilato e l'ha ribassato in nata la festa del bene. L'ha aiutato a uno che era in campagna, normalmente ha un parente lui. Cazzo, te l'ha fatto le labbra che cappano e non lascia. Ma te lo ricordi? Tu ne ha labbra, pacchi. Io quando faccio la pasta in bianco, aglio, olio, peperoncino e benemine de goro. Buona rete. No, vedi, nella pasta in bianco qualche volta mi metto un po' di pepe. Peperoncino ci vuole, grazie a roba genuina. Il pepe non sa che marasso ci vuole per conservarlo. Invece il peperone già si tiene da solo. Tanto per cambiare, qualche volta così, ce lo metto, o se no ci metto il peperoncino con l'olio fatto nel barattolo a fermentare prova a pulire il paralluce, non dai di fermentare. A cos'è? Una bomba, Però è buono, io conosco una ragazza, mangia tutto con il chioso che si prepara lì. Olio col peperoncino. L'olio col peperoncino, se lo butti dentro lo lascio stare, io usi l'olio. Ma lo consumi e aggiungi sempre, se no perdi la cosa, la causa. Ehi, ed è un bel piccante, si saporisce un bel. Io lo uso. Lo uso, infatti, una bottiglia di litro le faccio sempre, e man mano che si consuma aggiungi, se no poi rimane senza. Vabbè che peperoncino già ne ho, Già lo so, riprendi Luca, ma lo vedi. Io sono qua, mi sto ascoltando. A me piacciono quelli rotondi, i peperoncini, quelli che ci metti, non so, il tonno, oppure la ricotta. E ripieni quelli piccolini che li metti sott'olio nel barattolo, io quelli tanti tempo fa li facevo, da me non aggio più qua, e li faccio con le acciughe, con il tonno, capita, e mezzo panino di ricuria, 4 zinco, buona rete. Buoni so, tolle non li può mangiare così. Cosa vuoi dire? Se io sono un bel, i pizzicheggiani, no. A chi l'ha saputa se non ha finito il pronto soccorso per questa cosa. Se sono quelli io appena che pizzicheggiano i bongo, allora qualcuno già lo mangio. Però no, non assai. No, quelli delle rospi non so più i denti. Sì, dipende da come ti so. Anche se un momento di so, io arrivederci. Infatti, vedi voi che hanno mangio... Che facciano i lumaconi, si muoiono bevaroni in mezzo. Io ne docco. Hai paura che ti morsi, chiave del tono, non ti va di nulla. Quando sei in mezzo ai lumaconi si sente poco e niente, si sente, non è che siano così a carregati, no? Cioè è leggero. Sì, è leggero. Per mia cognata che dice, io ho messo un pochettino, che non ho già assaggiato uno. Si è capitato che io cominciando con una bocca arruia, ha detto, basta. Ah, poi se ne mangia di più mi si fa tutto canto il guipo così, ruglio. Rosso come un peperone, se ti serve il peperone ti usi a tole. Infatti per quello temo a mangiarlo, se leggero, già mi va bene. Però se di chi tu gatta che pizzicheggia un bene, non dà da fare. No, quest'anno me l'ha dato mia sorella, perché io non ne ho piantato. Me l'ha dato mia sorella, ma lei ha preso, non ha preso quelli di dolci, ha preso quelli già piccanti. Non si poteva li mangiare, ti incendiava la bocca. Io li pianto, non pianto quelli dolci, sono del ripieno, dolci, non sono piccanti. Dolci, leggermente ci hanno il piccante, ma invisibile. E quelli quando lo riempi poi, come detto Graziano, apri un panino, come due o tre d'orento e vai, non ti fanno niente. Ragazzi, io chiudo, dai, ce la risentiamo domani, se coincide. Ciao Luca, ciao Marchisio, ciao Tore, ciao chi è in ascolto. A tutti, ciao, a domani. Ok, ciao grazie, stammi bene. Buona cena. Ok, riprende Bacchi. E salutiamo Graziano, ciao Graziano, buona serata, saluta la signora e buona cena a tutti e due. A domani si coincide Graziano. Luca avanti a salutare Graziano. E ciao grazie, dai, buona cena. Saluta Pauletta anche da parte di Marina, ciao. Salutare. Ciao Pauletta. Graziano. Ciao Marina. A domani, là. Ciao a tutti. Quelli è brutti, grazie. Ehi, ciao. Ciao. Avanti, to. Sì, signor Bacchi. A Vallone se devo portare la macchina alla Citroen per codificare la radio. Che mi fanno ding. Campanella vai. Solo loro ce l'hanno con l'attrezzo per farlo, perché il tuo genere non ne ha. No, no, infatti solo da loro lo devi portare per codificarla. Mettegli, devono mettergli il codice, devono metterlo. È compreso. Ah, capito, capito. E come il coso, il navigatore che ho io, adesso sono un po' di anni che lo aggiorno, sono andato a chiedere e il metodo bisogna portarlo in Renault e te lo aggiornano loro. Infatti ce l'hanno loro il coso e vuole aggiornato al 2019, vuole aggiornato. E infatti era così. E quegli anni se li porta presso loro. Capio. Avanti lo. Luca non riprende, vuol dire che sta parlando in verticale. Va benissimo. E così tu allora, sei a piedi lunedì? No, me lo fanno subito, c'ho l'appuntamento alle 9:30, l'ho fatto vedere stamattina, so che stamattina me lo voleva fare stamattina, poi è giunto chi su di Luzzo che stava ritirando l'olio usato. Non me l'hanno potuto fare, ma ha dato l'appuntamento a lunedì alle 9:30. Va bene allora, te lo fanno subito, il buono, aspetti lì, te lo fanno, veloce. Ma te me la fa davanti stesso, mi fa vedere alcune cose, mi fa vedere perché ho aggiunto un cavo per l'MP3, ho aggiunto, e mi codifica tutto, ha detto che mi codifica. Ha aggiunto un cavo. Non so, è perché ne ha messo una presa che si mette nel cavo. Perché non ne ho prese, è solo con un cavo e veramente non ci voleva quel cavo lì. Ci vuole il coso suo normale, che una scatoletta che c'ha tutto e quella scatoletta è alimentata. E così aveva avuto meno rottura con la scatoletta, perché la scatoletta ci avrà la sua sede e dunque non c'è questo cavo in mezzo ai piedi. E loro non ce l'hanno più, bisogna ordinarla da internet, bisogna ordinarla quella scatola lì. Loro mi hanno detto che non ce l'hanno più, già è da anni che non ce l'hanno più. Quindi mi ha detto, se la trovo a ordinarla da internet. Mi ha detto di ordinarla. Questa è un bello bocco, burro, che l'ha giovita. Invece, senz'altro, la mia ce l'ha incorporato. Dove il portaoggetti sotto c'è la cosa, la presa. Sì, se trovo la scatoletta... Gliela fisso e gliela metto in un punto che si rimanga ferma. E perché non vai alla sua carrozza se trovi qualcosa, qualche macchina vecchia? Poi, ma ho già provato. Infatti la radio io me l'ho fatta arrivare da un amico di Cagliari e me l'ha detto, se non ce l'ho io te la faccio arrivare da fuori. Infatti me l'ha fatta arrivare da Vura. È una radio con la scritta MP3. E va tutto, va. So che la deve codificare. La Renault non te lo fa. Va la Renault, la Citroen non te lo fa. Sì, lunedì la devo portare, mi fa tutto questo qua, mi fa. E me lo codifica lui tutto quanto. Capito. E dov'è la Pedranietta oppure sono stati perditi a me sembra che era? Sì, dopo, prima della piazzetta, salendo dopo la piazzetta, là. E salendo dopo la piazzetta la Citroen. Sono andato lì al capo meccanico, ho fatto vedere chi c'è che fa le cose elettrica. Se me la porti lunedì gliela codifico io direttamente, gli aggiungo direttamente tutto quanto dall'apparecchio. Infatti mi ricordavo sulla sua ipertiglia, dove era da confalonire in pratica leggendale. Ma benissimo. A me fatto se ne parla più, mi sai di cutendi. Infatti, la Giuseppe ha radio e funziona però invece che su gojo, ding ding ding, e lo devono codificare loro. Ah, l'hai piazzata tu la radio? Era facile allora da fare. Sì, facile, a smontarlo e piazzarlo era facile, ci vogliono attrezzi suoi, a me me la arrivi di imparare un cavo. Gliel'ho messo, solo che bisogna codificarlo, generalmente si dice si vuole codificato e non lo fa nessuno, è solo noi lo facciamo. Se la tutatura ce la fanno loro, cosa che ci faccia, sia loro o qualche altro, ma io penso che quella tastatura avrà anche qualche altra persona, non so. No, e il fatto che per le codifiche lo sanno fare solo loro quel coso lì. Sarà qualche altro che lo fa, ogni cosa solo fa la sua casa, l'ho preso. E quindi la Citroen si fa il suo, la Renault si va a zero giugno, è tutto canto. Sì, ma adesso la Citroen, la Renault è anche Citroen, è tutt'uno, capito? È tutto con Favonieri, E vabbè, chi se li ha depredato, ma ne ha mandato alla Citroen, ma ne ha mandato, perché loro non lo facevano. Quelli della cosa, della Renault? La chiave del telecomando l'avevo acquistata lì alla Renault, ma l'hanno codificata loro, però per il resto devi andare alla Citroen, che ce l'hanno loro gli apparecchi per la Citroen. Ho capito, perché è tutta una famiglia adesso, famiglia unita. E infatti, ma io ti miravo lì a Giambà, agli teno sarà paravanno. E cambia la pensa e prenditi una cosa, una Renault. Proprio Renault non mi piace, preferisco più la Citroen, preferisco. Fra un paio d'anni allora sì. Lo stesso wagon, l'hai visto? Sembra un aereo, sembra. Ma chi? Sembra un aereo, ma... Vedete come mi aereo, zombie. Cosa, per uno che ne ha non sono niente, tu te lo puoi permettere, capito? Dunque compra. Non posso permettersi. Andiamo bene. Bene, bene, no. È arrivata l'ora del merendero, Tore. Ce la sentiamo domani. Saluti in casa, buona cena, buon tutto. Saluti anche a Luca che si è sentato in ascolto e anche agli altri ascoltoni che ci sono in frequenza. Bacchisio, chiude, ascolta il Pinalino e poi vai in QRT. Tore, vai avanti. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo domani. Ok. Ciao Luca! Ehi, dai, ciao, scusate ma ero per troppo, non devo pitare. Ciao Tore, dai, ciao Bacchisio. Tanto noi andiamo a mangiare adesso. Buona cena, a domani se Dio vuole, dai, ciao. Ok, ciao Luca. Vai Luca, domani, ciao.